Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Non mi era mai capitato di vedere una donna così indaffarata sul suo tablet durante un viaggio in treno. Non si limitava, come fanno molti, ad aprire il foglio Excel e lavorare o fingere di lavorare. Non si limitava, come fanno altri, a guardarsi un telefilm o un film registrato, non si limitava a rispondere mail, come qualcuno tenta di fare, approfittando degli rapidi e velocissimi squarci di connessione efficiente durante il viaggio in treno, nemmeno come fanno i più anziani, con i computer più vecchi, giocava solitario. No, era molto indaffarata, una sorta di scambio, interscambio di messaggi, usando diverse piattaforme, diverse maniere per mettersi in contatto con tante persone. E ho capito che questa donna sta lavorando a qualcosa a cui lei probabilmente tiene moltissimo, qualcosa che assomiglia più che a un lavoro a una missione. E infatti la mia impressione non era sbagliata. Come inizia la storia? Inizia che appunto io, non subendo il fascino della divisa, i militari americani li ho sempre, diciamo, eliminati, anche perché sono antimilitarista, cioè di mio. Però io faccio l'agente immobiliare e tempo prima di questo contatto con questo sedicente americano agente immobiliare, anche lui, avevo partecipato proprio a un convegno Italia-Florida a Roma. Io sono di Asti, per parlare di entrambi i mercati, cioè mercato italiano e mercato immobiliare della Florida. Quindi ci stava che un suo collega americano la cercasse in internet. Sì, anche perché io da quell'incontro avevo avuto, diciamo, avevo fatto una 3 giorni con i colleghi di Miami e ne conoscevo realmente, e questo ha esordito. Ci siamo conosciuti a Roma a quel convegno, che era una cosa pubblica, e quindi avevo detto andiamo a incontrare i colleghi della Florida per promuovere. Ma può essere che lei magari l'aveva detto anche, non so, su Facebook, in qualche social network. No, cioè comunicati stampa, cioè, lo sapeva tutto. Quindi il mondo. Era una notizia pubblica che lei partecipasse a un convegno. Sì, lui come si è presentato, però? Com'era? Con una foto? Lui si è presentato con una foto. Io poi ho guardato subito la foto, perché io appunto esordisco nei contatti, non ci conosciamo, ci siamo già. E lui dice: sì, ci siamo visti a Roma al convegno. Quindi niente, tutto normale, diciamo. E io gli dico: ma guarda, non mi ricordo di te, sono sincera, non mi ricordo di te. E lui da lì attacca sul lato personale, dicendo: era un periodo molto triste per me, ero un po' defilato perché mi era appena morta la moglie. Ho una bambina di 12 anni da allevare, quindi mi ha toccato subito sul punto, diciamo, dell'istinto materno. Quindi nulla poteva far pensare a un approccio tipo diverso. In fondo, un collega che incontri a un convegno, sì, che è normale. Parliamo di lavoro, possiamo collaborare. Ti apre il cuore su una sua vicenda personale triste, quindi non sembrava un provolone, tanto per essere chiari. Ma questo ci sta anche perché, voglio dire, nei rapporti anche di lavoro, a forza di sentire, dirti, cioè ti puoi anche dire come sta tua moglie o che ne so, come stanno i bambini, cioè, ci stanno, non so, perché sono rapporti social e sono rapporti che possono essere sia sul professionale ma anche... Quindi è nata, diciamo, una frequentazione online con un collega che raccontava le sue storie. Esattamente, e quindi si confidava con me di quello che gli capitava, della difficoltà di allevare questa figlia da sola, che era traumatizzata per la madre disgraziata che si drogava, che poi era morta in un incidente. Quindi una bella storia tosta. Sì, esattamente. E guarda caso la bambina era me in miniatura, cioè perché io ho una figlia grande che lavora all'estero e invece questa bambina praticamente era il mio clone, cioè dal punto di vista psicologico, ecco, cioè aveva i miei stessi... Ma lui come aveva fatto a avere le informazioni su di lei? Avete parlato, aveva capito? Io sono praticamente da quando c'è Facebook, che io sono, poi ho avuto blog, ho avuto... Quindi diciamo tutte fonti aperte, tutto quello che uno mette di se stesso. Si è analizzato da comunque un quadro. Per esempio una cretinata che si potrebbe, un aspetto stupido, cioè siccome si parlava sempre di cibo e io abitando nel Monferrato pubblico sempre le foto, non so, degli agnolotti piuttosto che del bicchiere di vino speciale quando sono nelle sagre eccetera, e lui parlava sempre di cucina anche lui e mi chiedeva sempre cosa mangiavo e cosa avevo cucinato eccetera, allora perché dice mi piace molto il cibo italiano, allora io gli ho chiesto qual è il tuo piatto preferito e lui mi dice il brodino di pollo, e che non è una risposta cioè plausibile, perché di solito uno ti dice la pizza però da fa impietosire, povero uomo, mangia il brodino. No, il brodino di pollo era perché siccome io d'inverno, anche in d'inverno giravo in moto in un certo periodo in scooter, e una sera ho scritto sono tornata a novembre con lo scooter dopo 50 chilometri e ho scritto che mi ero fatta il brodino di pollo. Ho trovato il brodino di pollo, dico cosa c'è di meglio, la cosa più bella che c'è. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. E poi da allora cosa è successo? È arrivata questa storia che era plausibile per 2 mesi. Io addirittura avevo detto ai colleghi: ma c'è uno che mi vuole sposare? Ah, già eravate arrivati alle promesse di matrimonio? No, io praticamente a chi aveva organizzato il convegno a Roma gli avevo detto: ti inviterò, ti farò fare il testimone a te, perché io ho conosciuto questa persona tramite il convegno che... Lei era follemente innamorata comunque di quest'uomo, era riuscita a cogliere? A dire la verità, praticamente io sentivo del trasporto, infatti la delusione cocente è stata la bambina. Perché a me appunto a 55 anni ricominciare, era 2 anni fa, 53, ricominciare stando allevando una bambina di 12 anni mi sembrava una buona opportunità, diciamo. Sì, mi sembrava come se, diciamo, la società mi venisse restituito qualcosa, perché sono divorziata. Comunque mi faccia capire una cosa, questo è importante. Lei ha avuto la sensazione ci fosse dietro una mente molto raffinata? Perché non mi sembra lei una persona né ingenua né sprovveduta. Praticamente mi era sembrato di avere un'affinità elettiva, perché effettivamente questo personaggio parlava un perfetto inglese. Non ho mai dubitato che non fosse americano, era, diciamo, molto sofisticato. Poi si è parlato di tutto, di arte, di cultura, di sport, di Shakespeare, di qualsiasi cosa. Poi col senno del poi esiste anche Wikipedia, non se lo dimentica. Sì, sì, appunto, col senno del poi uno dice basta fare Wikipedia. Infatti in alcuni momenti, diciamo, c'erano delle lacune, per esempio siccome entrambi eravamo appassionati di cinema ed era il momento della notte degli Oscar, io dall'Italia volevo sapere in anteprima se lui sapesse già chi aveva vinto l'Oscar e lui mi ha glissato dicendo: no, ma io sono impegnato al lavoro, voi mica che mi metto. Cioè, non ho mica avuto... E come è andata a finire? Quando è che ha sgamato che era un truffatore? Io ho sgamato nel momento in cui è arrivata la richiesta di denaro, che invece quella era palesemente stupida come richiesta, perché allora lui a un certo punto aumenta il pathos, perché dice stiamo per incontrarci, perché io vengo in Senegal dalla Florida, vengo in Senegal a dirigere un cantiere. E avrebbe avuto dei problemi in cantiere, dove gli avrebbero richiesto del denaro come multa, che questo sarebbe stato un ostacolo al nostro incontro, perché se erano stati sequestrati i macchinari, se non li sbloccava pagando questa multa non sarebbe potuto venire da me. Che è un classico nel format della truffa amorosa, è classico. Il format praticamente aumenta il pathos, perché giustamente la vittima dice ma io è improbabile una relazione con te perché siamo distanti. No, ma io tanto vengo in Italia, vengo da te perché giro per lavoro eccetera, adesso arrivo, vengo in Senegal, dal Senegal 3 ore di volo ti vengo a trovare. E poco prima di venirti a trovare praticamente inizia con questo discorso dei problemi, e al che non mi chiede immediatamente i soldi. Però mi dice oggi non posso stare in chat con te perché diciamo ti curano colazione, pranzo e cena, tanto per intenderci, con scadenze regolari, per cui tu ti senti assistito, ti senti diciamo coccolato in qualche modo. E invece quel giorno lì mi ha detto oggi non posso, e io ho detto vabbè, cioè, succede insomma che uno abbia dei problemi di lavoro, perché devo stare in linea a recuperare questi 10.000 euro che mi servono per pagare questo. E quindi le chiedeva 10.000 euro? No, è partito così, ha sondato, no? E io non gli ho detto te li do io, anche perché onestamente non li avrei neanche. E lui a un certo punto mi dice guarda, io ne ho trovati 8.000, me ne bastano 2.000. Proprio da pezzente, una richiesta da pezzente, cominciava con 2.000 euro. E io, ma non chiedono sempre cifre alte, perché c'è il problema dell'antiriciclaggio. Quindi si tengono sotto la soglia di controllo dell'antiriciclaggio, chiedono magari... Mi sembra 3.000 euro erano una volta. 1.000, 2.000, 3.000 euro per non dare nell'occhio, appunto. Quindi piccoli bonifici di piccole cifre, ma alla fine... Esattamente, ma poi a parte il fatto che questi piccoli bonifici sono fatti per n persone, per cui fossero anche 10 euro, se te li danno 1.000 persone, cioè. 10 euro... Poi le ha chiesto di farlo col money transfer, naturalmente, non un bonifico. No, ma io lì mi sono irrigidita e ho detto non so come aiutarti, cioè anche per 2.000 euro, anche perché ho iniziato a capire, ho iniziato a fare ricerche su internet. Il braccino corto di quella che sta nel commercio, è chiaro, viene fuori questo punto. Ma non è il braccino corto, logico, non vuoi essere imbecille. Cioè, certo, 2.000 euro perché ho dato 2.000 euro, giustamente. Allora giustamente ho iniziato a sospettare qualcosa, ho fatto delle ricerche in internet, era di sera molto tardi, per cui ho guadagnato tempo, mi ho detto a quest'ora, era un giorno di festa, a quest'ora non posso fare, perché voleva subito un bonifico online tramite money transfer, certo. E lo voleva a Dakar, però con un nome anglofono nigeriano. Certo, perché naturalmente come è logico era un ragazzo nigeriano che non era il suo nome, perché lui si è presentato con un nome, mi dà un altro nome che era palesemente nigeriano, perché io a forza di lavorare eccetera più o meno riesco anche a distinguere più o meno la provenienza dell'Africa, cioè perché i nomi senegalesi sono francofoni, i nomi nigeriani sono anglofoni, quindi aveva trovato la persona sbagliata e gli faccio guarda ma questo è un nome nigeriano, e lui mi ha detto sì, è il mio autista, perché a me non gli darebbero. Che autista. Ha iniziato a dire, a giustificare in qualche modo, e a quel punto lì io ero già collegata sul sito dell'FBI, sul sito, perché cercando, facendo ricerche in Google l'ha denunciato subito. Di tutto di più, era tardi, ho chiamato la polizia postale, non c'era, io ho guadagnato tempo, dico ci sentiamo domani mattina. Al mattino la prima cosa che ho fatto, ho chiamato la polizia postale, la quale polizia postale mi dice non si può fare niente perché sono truffe consumate all'estero, non c'è reciprocità. Poi lei non è neanche stata truffata perché soldi non ne ha versati. Sì, loro possono solo avvertirti che c'è questa cosa, ce ne sono tante. Ma io mi ero avvertita da sola, perché non sono stati loro ad avvertirmi, cioè sono io che ho detto a loro che era una truffa, perché loro in realtà questa attività anche di prevenzione potrebbero farla, non la fanno. Cioè io le informazioni allora le ho recepite particolarmente su siti stranieri in inglese, su siti americani. Dopodiché ho contestualmente ho trovato Yolanda Bonino dell'ACTA. Sì, adesso in Italia ecco, cominciano a parlarne, perché c'è questa associazione torinese. E allora praticamente mi sono infiltrata e parlo con questi qua, in alcuni casi li ho fatti anche spaventare, perché gli ho detto che gli faccio i giù, cioè sarebbero le fatture. Quindi ha trovato anche la maniera per spaventarli con la fattura. Sì, perché loro praticamente per propiziarsi guadagni utilizzano le fotografie delle persone e fanno dei riti voodoo dove fa che questo uomo bianco, donna bianca mi dia tanti soldi e fanno queste cose con... Vabbè, anche noi facciamo i pellegrinaggi a Lourdes, ognuno ha le sue. Sì, vabbè, sacrifici di galline, cose di questo. Ah, sulla sua foto scadano pure una gallina, perché possa essere propizia l'entità... Ma allora, io ho trovato foto in internet con banconote poggiate sui laptop per propiziarsi guadagni, riti particolari. Allora praticamente gli ho detto che faccio anch'io queste cose. Poi a volte nella parlata inglese, in chat, in video chat, però io il video sconsiglio vivamente a chiunque di fare videochiamate con questi qua, di farsi vedere. Ma quando fanno la videochiamata uno non li scopre che non è un ricco americano militare, ma è un giovane africano? No, perché loro manipolano le immagini, perché ad esempio del famoso Massimiliano Titone, quello che... il signore di Palermo che hanno usurpato come immagini, lui aveva dei video online per i fatti suoi, insomma delle sue gite, le sue cose che fa lui con la sua famiglia eccetera, e loro prendono questi video, li manipolano e dietro tu senti un'altra persona che parla, oppure prendono la foto della persona che dicono di essere e con dei programmi di internet la fanno muovere. Ah, fanno una GIF animata che si muove. Fanno una GIF animata con le immagini e tu pensi che sia un ritardo, perché vedi che non c'è il sincrono voce. Sì, vabbè, immagini. Tante volte una video chat può starci su Skype che si veda male. Si da lontano, esattamente. Beh, sono molto astuti. Quindi quanti diciamo ne ha colpiti finora lei di questi? Ma allora, io continuo a segnalarli. L'altro giorno ho bloccato anche un Mark Zuckerberg, insomma del proprietario di Facebook. Praticamente sono riusciti su Facebook a spacciarsi per il proprietario di Facebook. Dicevano di essere Zuckerberg, addirittura. Sì, addirittura. Oppure, vabbè, alcuni sono... identificabili perché sono artisti stranieri, ci abbiamo trovato, non so, un cantante brasiliano, abbiamo trovato l'attore messicano. Quindi tutte cose finte. Esattamente, oppure normali cittadini comuni che magari hanno una vita pubblica, quindi hanno foto, che ne so, in eventi pubblici. E oggi quasi tutti ne hanno, perché chi è... Lei ha un'idea, però lei ha un'idea di quante persone ci cascano, perché dunque lei è una donna con strumenti culturali e di acutezza sociale molto sviluppati, quindi per lei è stato abbastanza semplice scoprirlo in tempo, ma comunque c'è stata una fase in cui anche lei ci è caduta a piedi pari, quindi immagino una persona un po' più sprovveduta, com'è facile che cada preda di questi predatori proprio. Difatti a me lo sgomento che è venuto, per cui io mi sto dedicando all'ACTA per questo motivo, è il fatto che penso, non so, mia nonna, mia zia, cioè, che fino all'altro ieri non sapevano manco cos'era internet, che adesso magari lo utilizzano perché tramite i social si scambiano le foto dei nipotini o le ricette di cucina, e se vengono contattate non hanno gli strumenti per difendersi e sono facili preda. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Lei si è fatto un'idea sulla tipologia del truffatore? È un giovane povero, con pochissime risorze, però con molta voglia di guadagnare. Io penso che, insomma, siccome hanno guadagnato parecchi soldi, allora intanto non sono non è uno. sono più persone che si avvicendano. È un call center, sì, è come un call center. Esattamente, ma in realtà loro chattano a bordo piscina con dei tablet di ultima generazione, oppure in lussuosi hotel. Quindi hanno guadagnato, sono evoluti. Sì, hanno una tecnologia molto, molto elevata, capacità, perché allora loro sono nativi, come i nostri figli, sono nativi digitali e quindi hanno una marcia in più rispetto a noi 50-60enni, perché noi, cioè internet, l'abbiamo imparato per strada, ecco. L'abbiamo imparato dopo per chi ci lavora. Chi non ci lavora, la casalinga eccetera, è una tragedia, perché adesso la casalinga chatta perché il suo cellulare gli consente di andare su Facebook, ma non ha nessuna esperienza di quello che c'era prima, questo è logico. Esattamente, non hanno competenze. Poi loro addirittura si offrono di aiutarti, perché adesso, ad esempio, in un'ultima chat io non volevo dare la mia email, perché adesso, siccome i social li bloccano, loro cercano subito di trasferirsi su una conversazione su posta elettronica. Allora mi ha chiesto il mio indirizzo di posta elettronica, io gli ho detto no, guarda, io ho un solo indirizzo, ma quello stronzo del mio capo legge tutto, per cui non te lo posso dare, perché sennò ci scoprono. Allora lui mi dice crea un'altra email, io ho fatto la stupida, no, non sono capace, eccetera. Allora lui ha detto ah, ma te la faccio io la mail e ti mando le password, certo, ti mando le password, così chiacchiera. Per cui ci sono delle persone che addirittura danno loro le password e tra l'altro poi loro diventano, diciamo, pericolosi questi meccanismi, perché si infiltrano in conti correnti, nei pagamenti. Un'altra cosa che fanno, mandano dei fiori, ti chiedono il tuo indirizzo di casa, oppure si propongono di mandarti dei regali, perché ad esempio l'ultima chat non voleva una relazione amorosa, voleva che io gli insegnassi l'italiano. È sempre una maniera per acquisire familiarità. Perché ti devo insegnare l'italiano, te non sono mica un insegnante? No, perché mi piace l'Italia, voglio imparare l'italiano, eccetera eccetera, ma io ti ricompenso, ti mando subito un iPhone come regalo, perché un iPhone, una persona gentile, dammi il tuo indirizzo. Se gli dai il tuo indirizzo, loro hanno il tuo indirizzo, i tuoi dati, poi loro chiedono conferma del ricevimento del regalo, e tendenzialmente di solito mandano mazzi di fiori e li mandano tramite delle applicazioni web dove non si è chi li ha mandati non è riconducibile, non lo trovi, perché quindi i fiori arrivano davvero. Comunque i fiori arrivano davvero. E quindi per una donna che, insomma, onestamente nelle relazioni con i fiori, quale uomo ti manda? Non ne manda mai nessuno ultimamente, no? E per cui ricevi dei fiori, è una cosa gratificante che alla psiche fa molto bene, per cui tu pensi che questa persona è reale perché ti ha mandato i fiori. Comunque abbiamo capito che questi signori vanno a riempire una grossa falla negli aspetti relazionali e affettivi che indubbiamente c'è nell'Occidente civilizzato e avanzato. Sì, io ho una signora che sento sempre, che continua a dire, non vuole credere che è stata truffata, anche se ha dato già parecchi soldi, e lei dice ma il figlio di quest'uomo mi chiama mamma, e io gli ho detto abbi pazienza Giovanna, ma se tu mi dai 1.000 euro al giorno, ma io vengo a trovarti, ti chiamo anche zia, mamma, nonna, ti zia, amore, ti chiamo come vuoi, vengo anche a darti un bacio in fronte se mi dai 1.000 euro al vabbè giorno. Ho capito che il suo ruolo di vendicatrice delle povere donne sedotte e derubate sta procedendo bene. Io intanto scendo perché è arrivata la mia stazione. Le auguro di rincontrarla in un prossimo viaggio con nel suo carnere tante teste, metaforicamente, naturalmente, simbolicamente tagliate, di truffatori, di povere signore in cerca di una minima gratificazione personale e anche emotiva. Grazie, alla prossima. Sì, arrivederci. Avete presente un bell'uomo che se la tira? E quanto di più insopportabile esista per un altro uomo che se ne sta dimesso, appoggiato in un sedile, guardandosi la punta delle scarpe e probabilmente immaginando che quell'uomo farà piazza pulita attorno a lui di tutta l'attenzione, calamiterà tutti gli sguardi. Comunque sia, in qualunque situazione, con qualunque persona, sarà sempre vincente. Lo so, è una qualità, ci si nasce vincente, o perlomeno è importante che qualcuno creda di essere vincente. E devo dire che scambiare qualche parola con il mio vicino di scompartimento e capire che in realtà è veramente l'uomo sicuro di se stesso che tutti noi avremmo voluto essere, è stata un'esperienza corroborante. Differenza massima per te qual è stata? Di età? Fra te e lei? Una ventina. Vent'anni? Sì, la chiamavano la zia, i miei amici, risate. Ma lei era sposata? No, era divorziata, un'avvocatessa, me lo ricordo. Ricordo che è stato abbastanza da parte mia. Ci siamo scambiati uno sguardo, un secondo, un terzo con un sorriso, e dal terzo col sorriso si parte con un approccio gentile, un approccio di una volta, un approccio gentile da galateo, posso offrirle qualcosa da bere, e poi da lì siamo fatti due chiacchiere, due risate, e poi bisogna farle ridere le donne, quindi se le fai ridere sei già a metà dell'opera. Senti, ma lo scalino era notevole allora? Quanto era? Lo scalino era notevole, ma non sembrava, perché era una persona comunque sia single, con un buon lavoro, che si manteneva in forma e di conseguenza diciamo che mostrava comunque sia meno degli anni suoi. Tu quanti anni avevi? Io ne avevo 25, una decina d'anni fa, e lei ne aveva 48-49 anni, mi ricordo che era sulla soglia dei 50. Oggi se tu la rivedi ha 60 anni questa donna. L'ho rivista nella mia città, perché abita anche lei qua, di sfuggita, e ci siamo fatti una risata entrambi con un sorriso, fra virgolette, malizioso. Ma ti sembrava più possibile oggi avere con lei un ritorno di fiamma? Ho 8 anni e sto bene con la mia signora, che ha comunque sia sempre un anno in più di me. Beh, 8 anni vuol dire che c'è stato un pentimento dopo, è stato l'ultimo assaggio, diciamo, della donna più grande. No, di assaggi ne abbiamo avuti tanti, però diciamo, è stato uno delle che mi rimangono più impresse, perché tutti i miei amici, quando la portavo giù dagli amici in compagnia, diciamo, un paio di volte, tipo, no, è mia zia, e gli altri sono fatti una risata. I tuoi amici ti prendevano in giro per questa storia? No, anzi, c'era chi diceva, guarda che bel lato B, bravo. Era solo l'aspetto estetico che valeva, anche perché, diciamo, la storia è nata proprio così, per una storia così, di passione. Tu dici nulla, una botta e via, ma qualcosa del genere. Un aperitivo con gli amici e lei un aperitivo con un'amica appena divorziata. Mi ricordo che c'era questa amica un po' in crisi che poi c'è forse successo anche qualcosa con l'altra amica negli anni a venire. Forse, ti ricordi o no? Mi viene in mente, mi sovviene. E siamo un adesso l'uomo da un milione di donne che manco si ricorda con le donne che è stato, dai. Vabbè, può capitare, purtroppo. Sì. Vabbè, adesso. Quindi anche l'amica dopo è toccata. È capitato, sì, un incontro furtivo di quelli in discoteca che ci si scontra un po' col tasso dell'etilometro acceso, sì, mi ricordo qualcosa, però vabbè, sono situazioni di quelle toccata in fuga. Ecco, ma per capire, per carpe te... Carpe diem. Fammi altri esempi, perché sennò sembra che è una sola e non è una regola. Mi viene in mente una persona che è stata una situazione molto simpatica, perché vedevo passare questa signora in questa zona e andava da un signore molto alto locato, molto con i soldi, e questa signora, io e i miei amici ce l'avamo un pochettino, ci andava, era l'amante di questo signore? Sì, era tipo l'amante, era la mantenuta, una situazione un pochettino vabbè, così. Cavoli suoi, fatti suoi sono. Bravo. Andava, ecco, frequentava un uomo da lì. Io la vedevo passare una volta, tutte le volte che tornava giù dopo un'ora, mezz'ora, e si rifaceva la sua passeggiata, andando via da questa zona dove sono ancora i nostri amici. Un bel giorno io ho preso un attimo di coraggio e mentre passavo gli ho detto: vieni, andiamo a berci qualcosa, che ti vedo che oggi sei ancora più scoglionata degli altri giorni, probabilmente te l'ha dato ancora meno. E lei si è fatta una risata e gli ho detto: sali, vieni, questa è la mia macchina. C'erano i miei amici lì, hanno visto questo bel troncone di signora salire in macchina e via, l'ho portata a casa. Con una battuta così e un sorriso l'hai conquistata. Siamo andati a fare quel che il signore non aveva fatto. Vabbè, C'è sempre qualcuno che aspetta dietro l'angolo quando un uomo non è all'altezza del compito. Una volta capita sempre stare attenti, di essere il secondo, una volta capita di essere il primo, e ahimè, e la vita è fatta così. Ma questa è stata storica, è rimasta con i miei amici, poi perché erano tutti con la bocca aperta, non ci crediamo. Cioè proprio così, d'amblè, che ripassava e tutti, la signora, io dopo mezz'ora che è ritornata, che l'ho vista così, ho fatto il giro della palazzina dall'altro lato, l'ho acchiappata e gli ho detto quel. Senti, adesso, onestamente, sembra che tutta la tua vita amorosa sia stata sempre un trionfo, un'apoteosi, un altare in cui tu eri grande sacerdote. Sono fortunato, ti è andata sempre mamma bene. Guarda, papà napoletano, fa tanta roba. Ti è andata sempre bene, eh? Incredibile. Vabbè, ti è andata bene, ti è andata. Sì, mi è andata bene. Cioè, sei molto sicuro di te, vedo. Bisogna rischiare nella vita, sennò vabbè, sì. È dura. Vabbè, è senti, io sono convinto che c'è sempre un treno che ripassa, poi non è che passa solo una volta il treno. Certo, è ripartito anche adesso. E va bene. Bocca al lupo allora, poi perché riparte io prendo il mio e tu il tuo. Ciao. Ciao. Il treno va. Si informano i signori passeggeri che fra qualche minuto passerà in carrozza il personale del treno per offrirvi un piccolo spuntino. Siamo arrivati all'audiolettera. Questa volta più che una lettera è un trattato. Questa volta è un vademecum. Questa volta consiglierei le ascoltatrici che mi seguono nel treno e con palpiti carnali, sensuali o semplicemente sentimentali molte volte mi espongono quelli che sono i loro problemi nell'impervio cammino della ricerca dell'uomo ideale, ascoltate bene quello che vi dice questo amico, ascoltate e prendete nota, anzi trascrivete, fatene un appunto, fatene un decalogo, fatene un vademecum, tatuatevelo sulle mani, insomma ascoltate quello che un uomo vi dice degli uomini che voi ogni volta trovate indecifrabili. Caro Gianluca, sono un 37enne che ascolta sempre con un certo interesse le lettere del tuo pubblico femminile. Vedo che spesso tra le tue viaggiatrici ci sono quelle deluse da uomini illusionisti, che da un momento all'altro spariscono senza lasciare traccia, o peggio, inventano le scuse più ridicole per saltare un appuntamento o per non vedere la donna con cui fino a pochi giorni prima si sentiva o messaggiava tutti i giorni in chat. E puntualmente queste donne ti chiedono: ma perché gli uomini si devono comportare in questo modo così vigliacco? Perché fare solenni dichiarazioni su magiche intese, grandi attrazioni e addirittura tirare in ballo l'amore e i sentimenti per poi darsela a gambe levate senza spiegazioni? Ecco, la mia lettera di oggi vuole essere una risposta a tutte le donne di questo tipo. Premetto che anch'io mi metto tra i maschi vigliacchi, visto che più di una volta ho fatto l'illusionista. Non che la cosa mi diverte, però per me è la soluzione più semplice. E almeno ora posso parlare senza barare e spiegarvi che i motivi per cui un uomo sparisce dopo aver avuto una piacevole attività di scambio intenso e magari anche dopo uno o più incontri con una di voi sono i più svariati, ma sono tutti imbarazzanti per me. Mai vi si pose un'occasione più ghiotta in un programma radiofonico. Un uomo vi racconterà, o donne in ascolto, come mai un uomo scompare. Voi dite lo fa perché è un vigliacco, lo fa perché è un immaturo. No, lo fa per una ragione ben precisa. Ascoltate e prendete appunto. Cara amica, che ci sei rimasta male perché sono sparito all'improvviso dopo il primo incontro, sai perché l'ho fatto? Magari perché quando ti ho visto dal vivo dimostravi 10 anni in più rispetto alla foto del tuo profilo, o perché avevi la pancia, e a me non piacciono le donne con la pancia. Oppure mi sono reso conto che non mi ecciti minimamente. Oppure non ho goduto particolarmente nel fare sesso con te. Oppure ti ho trovato in generale poco interessante per me. O ancora, mi stai simpatica, ma dopo il nostro incontro sono uscito con una donna che mi piaceva molto più di te. Perché diciamolo, tutti, donne e uomini, giochiamo sempre su più tavoli simultaneamente. Per non parlare poi di uomini che sono sposati e devono per forza sparire dopo aver consumato. I motivi sono infiniti e concordo con voi che sono tutti motivi biecamente maschili. Ma ora, care amiche, ditemi voi come reagireste se uno vi dicesse la verità. Ad esempio, se io dicessi: senti, mi sei simpatica, ma ho trovato una più bella di te. Ecco, ve lo immaginate? Sarei sommerso da una valanga di insulti. Ma anche se io dicessi: Cara, credo di non trovarti abbastanza interessante per me. Subito arriverebbe la replica piccata. E tu, che credi di essere idiota? Sei un povero Cristo frustrato e arrapato e ti permetti pure di giudicarmi. E poi sentiamo, cosa non andrebbe in me? Insomma, lo dobbiamo ammettere. Per noi uomini, in queste situazioni, per sparire è sempre meglio tirare fuori una pietosa, ridicola scusa che non la banale verità, che umilierebbe la donna e non farebbe che creare discussioni inutili. È chiaro, a questo punto, da questo passaggio del nostro compilatore del decalogo che ogni donna dovrebbe avere sempre con sé quando immagina e pensa che inizi la storia con un uomo, che l'uomo in fondo è generoso. L'uomo fugge, l'uomo scompare, l'uomo si dissolve, l'uomo si dilegua semplicemente perché è buono, perché non vuole infliggere un dolore, perché non vuole crudelmente infierire su quella donna che immagina e capisce già presa dal palpito amoroso. Allora, amiche donne, io vi propongo una regola d'oro che andrebbe osservata in tutte le relazioni nate in chat. Quando un incontro viene rinviato da un uomo con una scusa per più di una volta, lasciate perdere. Non insistete, non cercate il chiarimento. Date per scontato che dietro la sparizione c'è sotto una di quelle orrende verità che riportavo sopra. Io credo che l'errore di voi donne, parlo delle relazioni nate in chat, sia davvero quello di fare investimenti emotivi e sentimentali troppo grandi su quelli che per noi maschi possono essere al massimo dei piacevoli incontri. E soprattutto dovete imparare una cosa: le parole degli uomini, a differenza di quelle delle donne, non contano niente, servono solo a quagliare. Imparate a valutare gli uomini da quello che fanno, non da quello che vi dicono di voler fare. Se un uomo vi vuole veramente sentire, vi chiamerà. Se veramente vi vuole vedere, vi vedrà. Se veramente vuole fare l'amore con voi, lo farà. Non starà lì a dire «io vorrei, ma proprio non posso» e via dicendo. Se un uomo vi vuole davvero, non esistono riunioni di lavoro, impegni familiari, niente di niente. Quindi alla seconda scusa che sentite, lasciate perdere. In generale, il mio consiglio a voi donne cacciatrici di relazioni virtuali è: non cercate legami là dove per noi uomini ci sono solo piacevoli distrazioni. Forse esisteranno uomini diversi da me, più romantici e sentimentali? Può darsi. In questo caso vi auguro buona caccia. Io, che vi piaccia o meno, sono e rimarrò così, connesso con tutte, legato a nessuna. Un caro saluto a tutte voi, Daniel. Ora è chiaro che questo amico che ci ha scritto alla fine vuole tirarsela un pochino anche lui, vuole fingere d'essere l'uomo di tutte le donne, ma quello che nessuno avrà. Però è stato sincero, vi ha detto veramente quello che in fondo probabilmente molti verranno già detto, ma vi è entrato da un orecchio e uscito da quell'altra, perché sono le cose che nessuna donna vuol sentirsi dire, cioè che un uomo forse, se non si fa vivo, è perché tu in fondo non gli piaci poi mica tanto.